giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sciolte le riserve, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani correrà per le europee. In 10 tentano la fuga dal CPR di Gradisca, ferito gravemente l'unico che si è lanciato oltre il muro. Accoglienza diffusa al Balducci di Zugliano, i vantaggi di un sistema poco praticato in regione. La cavalcata dell'inflazione è costata 2.365 euro in 2 anni a ogni famiglia della regione. Stadio Friuli alle 15 si gioca con la curva nord chiusa. La maggior parte degli abbonati ci sarà comunque. Jugosfera, critici a confronto alla Miela di Trieste, la guerra dei Balcani vissuta su fronti opposti. Sono le 12:31 minuti, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio regionale con la politica. Sceglie il coordinamento di Fratelli d'Italia il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani per confermare la sua candidatura alle prossime europee. Nella nuova sede inaugurata questa mattina in via Molinari e intitolata alla memoria di Gastone Parigi, padre della destra pordenonese, c'erano anche il ministro Luca Ciriani, il vicepresidente della regione Anzil e i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Ma sentiamo le parole di Alessandro Ciriani e del coordinatore del partito Walter Rizzetto, raccolte poco fa da Natascia Gargano. Il servizio non è ancora pronto, nell'attesa passiamo al prossimo argomento. È stato un vero e proprio tentativo di fuga quello messo in atto ieri sera dalle 20:30 nel centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo, opera di 10 persone lì rinchiuse. Mentre in un'ala della struttura alcuni bruciavano un materasso, dall'altra parte il gruppo ha divelto gli infissi per scardinare le barriere che impediscono di raggiungere il tetto. Una volta riusciti in questo tentativo, il primo di loro, un tunisino di 34 anni, incensurato, arrivato da pochi giorni al CPR, ha cercato di fuggire facendo però un volo di 6 metri sull'asfalto sottostante. È stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara a Trieste con femore rotto, commozione cerebrale e costole incrinate, ma non è in pericolo di vita. Gli altri 9 giovani hanno desistito dal tentativo di fuga. La polizia è intervenuta circondando l'area. Al momento nel CPR ci sono 80 persone in attesa di essere rimpatriate e da settembre, con il decreto legge governativo, il tempo massimo di permanenza è stato allungato fino a 18 mesi. E possiamo adesso ascoltare le voci del sindaco di Pordenone Ciriani e del coordinatore di Fratelli d'Italia Rizzetto sulla candidatura alle prossime europee del sindaco di Pordenone. Io oggi ufficialmente mi sento qui di fronte a voi, ma avendo veramente insomma l'attuale sindaco di Pordenone Alessandro accanto a me, mi sento a nome del partito in Friuli Venezia Giulia di chiedere ufficialmente la candidatura in seno alle prossime elezioni europee ad Alessandro. Sindaco Alessandro Ciriani, l'onorevole Rizzetto ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime europee perché ha deciso di accettare. Che cosa vede per il futuro suo di questa città? Ma quello di mettermi a disposizione di un territorio per portare a casa le opportunità che l'Europa offre, senza però tradire il mandato che ho stretto con gli elettori di Pordenone. Infatti la carica di europarlamentare, qualora fosse eletto, non è incompatibile con quella di assessore. Quindi da un lato completare il progetto amministrativo Pordenone e dall'altro lato irrobustire il messaggio che Giorgia Meloni sta gestendo a livello nazionale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I grandi hub per i migranti sono controproducenti per l'integrazione, molto più efficaci invece i progetti di accoglienza diffusa, ma in regione sono pochi i comuni che aderiscono. Da questa sintesi è partito il convegno sul sistema dell'accoglienza diffusa organizzato dal Centro Balducci, dove sono intervenuti i sindaci di alcuni comuni, demografi e anche statistici. I progetti di accoglienza diffusa, ovvero quelli che distribuiscono i migranti sul territorio in appartamenti o in piccole strutture che vengono finanziati attraverso la legge che regola il sistema SAI, in Italia offrono circa 44.500 posti, ma vi aderiscono solo il 17% dei comuni italiani, tra questi però i maggiori centri urbani e i comuni più interni. Un tipo di accoglienza che in Friuli Venezia Giulia nel 2022 ha accolto poco più di 320 persone, assolutamente troppo poche, secondo Don Paolo Iannacone, presidente del centro Balducci, che vede invece nella creazione dei grandi hub di accoglienza che trasformano vecchie caserme o infrastrutture dismesse in CAR e CAS delle realtà che contribuiscono soltanto a creare marginalità e non aiutano in alcun modo a integrare nella comunità gli stranieri. L'accoglienza che diventa integrazione, l'accoglienza che diventa la possibilità di queste persone di poter far parte delle nostre città, dei nostri quartieri, non chiusi in caserme come relegati in qualche posto così, probabilmente anche con servizi un poco provvisori. Negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia ha arretrato moltissimo, è diventata la regione italiana con meno progetti, quindi con meno innovazione sociale. C'è quindi purtroppo un'arretratezza di questo territorio che va recuperato. Durante il convegno promosso dal Centro Balducci, anche le testimonianze di alcuni sindaci che hanno aderito all'accoglienza diffusa o altri che vorrebbero entrare a farne parte, come il sindaco di Udine De Toni. Intanto per il 2024 il Ministero aprirà nuovi bandi per l'accoglienza dei minori non accompagnati. Udine, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'esplosione dell'inflazione tra il 2021 e il 2023, pari al più 14,1%, ha fatto spendere a una famiglia media del Friuli Venezia Giulia 2.365 euro in più in due anni. Nel 2021 la spesa annuale in termini correnti dei nuclei della regione ammontava a 23.910 euro. L'anno scorso era salita a 26.275 euro, un aumento del 9,9%, pari a 197 euro ogni mese. In Friuli Venezia Giulia, spiega l'ufficio studi della CGA di Mestre, i rincari più importanti hanno interessato le bollette di luce e gas, i prodotti alimentari e i trasporti, penalizzando soprattutto le famiglie più fragili economicamente. L'aumento generalizzato dei prezzi ha provocato una perdita di potere d'acquisto che non si ricordava da almeno 25 anni. Una situazione che ha penalizzato anche le piccole attività commerciali. Se le vendite della grande distribuzione hanno tenuto, la contrazione di botteghe artigiane e negozi di vicinato in termini reali è stata preoccupante, con insegne rimosse e saracinesche abbassate in costante aumento. Chiusure che hanno l'effetto anche di rendere meno vivibili e più insicure le aree urbane, a scapito soprattutto degli anziani. Nel 2024 è previsto comunque un rallentamento dell'inflazione, attesa una crescita media inferiore al 2%, che dovrebbe indurre la Banca Centrale Europea a diminuire i tassi di interesse. Nel caso le situazioni di crisi in Medio Oriente e in Ucraina dovessero precipitare, l'aumento dell'inflazione potrebbe attestarsi ben al di sopra del 2% previsto. E adesso allo stadio Friuli, dove alle 15 inizierà Udinese e Monza, con la curva nord deserta dopo gli insulti razzisti al portiere del Milan. La maggior parte degli abbonati comunque pagherà per accedere al settore distinti. Clima disteso qui allo stadio Friuli a 2 ore e mezza da Udinese e Monza, parcheggi semivuoti e botteghine ancora aperti per chi ha caccia del biglietto. Alla fine ci saranno e tiferanno dal settore distinti. Quasi tutti gli abbonati della curva nord dell'Udinese hanno deciso di entrare, indica Giuseppe Marcon, presidente dell'AUC, l'associazione che raggruppa i 54 Udinese Club. Anche gli ultras avrebbero deciso di entrare, potrebbero rimanere fuori per protesta alcuni gruppetti di autonomi. Ci sarà naturalmente molta attenzione su quanto accadrà sugli spalti, oltre che in campo. Ricordiamo che era stato accolto parzialmente il ricorso della società dopo la decisione del giudice sportivo di far giocare una gara a porte chiuse a seguito di insulti razzisti al portiere del Milan, Maignan. 5 i tifosi denunciati, destinatari di DASPO e banditi a vita dallo stadio dell'Udinese. Curva Nord chiusa dunque per 2 giornate, la decisione a metà settimana della prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Contro il Monza, appunto, punto e il 18 febbraio contro il Cagliari, due partite decisive per i bianconeri per tirarsi fuori dalla zona retrocessione dove sono scivolati dopo la sconfitta di Bergamo. Per il match contro i Lombardi l'Udinese ha dato la possibilità ai suoi tifosi di acquistare i biglietti per i settori distinti e ottenere il rimborso della quota di abbonamento relativa alla partita. Se quasi tutti i 5.000 tifosi della Nord potrebbero essere presenti, non ci saranno invece i tifosi del Monza. La curva Davide Pieri dei Brianzoli ha emesso un comunicato di protesta. La revoca parziale della sospensione a 48 ore dal match non ha dato di fatto tempo ai tifosi di organizzarsi per la trasferta. Comunicato polemico anche contro la colpevolizzazione di un solo settore. Assente anche i Monza Club, potrebbe dunque essere vuoto virtualmente il settore ospiti da 1.400 posti. La chiusura per due gare della curva nord è una punizione troppo severa, secondo l'allenatore dei friulani, Cioffi. Si è detto rammaricato per l'assenza dei suoi supporter, invece l'allenatore del Monza, Palladino. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: arrestati dalla polizia di Udine due cittadini egiziani di 19 e 20 anni che giorni fa in autostazione avevano aggredito un uomo. Uno dei due, per sottrargli una banconota da 20 euro, gli aveva morso la mano. I due sono stati individuati grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e al riscontro delle immagini delle telecamere di sorveglianza. I due egiziani, domiciliati a Milano e a Torino, uno irregolare, sono stati arrestati. A Trieste l'ennesima truffa telefonica del finto incidente stradale. Il truffatore però è stato subito fermato e portato al coroneo. La vittima, una donna di 95 anni residente nel quartiere di Roiano, ha avuto il merito di avere prontamente denunciato l'accaduto. Al telefono un uomo italiano che si presenta come avvocato e spiega le gravi conseguenze penali per un parente coinvolto in un incidente stradale. Chiede di avere immediatamente 2.000 euro e gioielli d'oro. La donna consente. I carabinieri, durante un controllo in città, si sono insospettiti osservando un uomo di 45 anni che si aggirava in Piazza Libertà. Durante i controlli gli hanno trovato addosso soldi e i monili d'oro sottratti all'anziana. E adesso parliamo di intelligenza artificiale. Studenti universitari di Trieste e di Roma si sfidano. Alla gara partecipano 20 squadre. Il primo premio vale 3.000 euro. L'idea è stata di una start-up della Sissa a Indo in collaborazione con Televita, l'impresa triestina specializzata in servizi telematici nel settore della salute. Le squadre devono infatti trovare i migliori metodi di assistenza per migliaia di pazienti fittizi, sfruttando la capacità di elaborare dati dell'intelligenza artificiale. Il servizio: l'intelligenza artificiale applicata a soluzioni per gli anziani soli in casa, rilevare i loro movimenti e magari intervenire in caso di necessità. È una simulazione con studenti e programmatori che da Roma e Trieste provano a vincere un premio in denaro in un hackathon, una maratona di programmazione organizzata tra gli altri dalla Sissa. Il primo obiettivo è analizzare bene i dati. La sfida è quella di predire appunto dati di una casa dove vive una persona anziana, alcune caratteristiche che appunto sono date dai dati, tra i quali la temperatura, l'umidità predetta da alcuni sensori. I dati a disposizione non sono quelli di un anziano reale, sono cosiddetti dati sintetici che la startup triestina Aindo genera e vende bypassando così i problemi di privacy. Borut Svara, fondatore Aindo. I dati sintetici sono una coppia del dato vero, però sicura e privata, che non contiene più l'informazione originale. Possono essere creati in diversi modi. Noi utilizziamo le tecniche più avanzate esistenti, che sono quelle con l'intelligenza artificiale. Qualcuno che o vuole sviluppare degli applicativi su questi dati, oppure qualcuno che vuole fare ricerca, perché i dati sono così veritieri statisticamente che uno può fare innovazione, può creare nuove soluzioni con questi dati. Questi dati precisi sono infinitamente meno costosi e più sicuri di quelli reali. In sostanza, chi vuole sviluppare un software con dati sensibili come le transazioni finanziarie o parametri medico-ospedalieri utilizza invece quelli sintetici in un primo momento e poi li sostituisce con quelli reali solo quando l'applicativo già funziona. Oppure può usarli per la ricerca scientifica, tanto sono affidabili queste informazioni generate tramite il machine learning, ovvero le istruzioni fatte proprie da una macchina con un algoritmo. A partecipare all'hackathon studenti e studentesse di magistrale e master di data science, intelligenze reali dietro a quelle artificiali, a macchine che imparano da sole. il futuro è loro. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Formare competenze adeguate allo sviluppo continuo dell'industria sempre più digitale e smart. Una delle direzioni principali è quella della meccatronica, spiega un ex studente del Kennedy di Pordenone, oggi ai vertici della Savio. Savio, Zanussi, Locatelli sono ricordati nell'opera che accoglie chi entra al Kennedy di Pordenone. Imprenditori lungimiranti negli anni 50 vollero fortemente un istituto tecnico a Pordenone nella consapevolezza che non ci sarebbe stato sviluppo industriale senza la creazione delle competenze adeguate. Visione più attuale che mai, come sottolinea Mauro Moro, ex studente dell'istituto e oggi amministratore delegato della Savio Macchine Tessili. Il mondo dell'industria sta vivendo una grande trasformazione che riguarda tutto il mondo del digitale, ma rimarrà comunque una parte meccanica. Le nostre macchine diventeranno più elettroniche, avranno più smart devices, usando queste parole inglesi, ma rimarranno comunque delle macchine, e quindi la competenza, il mettere insieme la meccanica, l'elettronica, in questa parola un po' brutta che si chiama meccatronica, è una delle direzioni con cui le aziende che oggi esistono nel territorio dovranno sempre di più affrontare per mantenersi competitive sul mercato. E proprio alla meccatronica è dedicata la rassegna Metal 5.0, con un grande convegno in programma il 9 febbraio dalle 9 all'Istituto Kennedy di Pordenone. Alberto Cavicchiole, presidente di MILS. Abbiamo avuto la piena e importante adesione di grandi istituzioni, oltre a Confindustria Friuli Venezia Giulia, abbiamo la Regione Friuli Venezia Giulia, Federacciai, Assofond, Amafond, che sono interessati a sviluppare un dibattito per il rinascita degli istituti tecnici in Italia e nel Nord Italia in particolare. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Musica e divertimento, ma anche formazione e l'opportunità di ampliare le proprie competenze. Il Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone ha presentato il programma dedicato alla fascia di età tra i 14 e i 36 anni. Questa sera alle 20 il palco del Centro Giovani ospiterà il concerto della band Elettra Storm. Poi, sempre a febbraio, stand-up comedy con giovani comici emergenti. Fino ad aprile, con un appuntamento al mese, il musicista monfalconese Cristian Rigano, fuori classe delle tastiere dei synth digitali, terrà un corso di produzione musicale. In avvio anche tre corsi gratuiti con laboratori di teatro base, avanzato e teatro danza. Sempre attivi i corsi musicali e di fumetti, il corso Cinema Lab e la new entry sui giochi da tavolo e di ruolo, oltre al laboratorio di podcast. Attività che hanno l'obiettivo di creare opportunità occupazionali per i più giovani. Martedì 27 febbraio, poi l'evento informativo Vivere, lavorare e studiare nell'Unione Europea, istruzioni per l'uso. Il tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 6,5 gradi, a Gorizia 6, Pordenone 6,5 gradi, a Udine 8,5 gradi, a Forni di Sopra, Tolmezzo e Sappada 6, Tarvisio 7,5, sul Piancavallo 12 gradi, sul Monte Lussari 7,5 gradi, Monte Zoncolan 8 gradi, a Grado Lignano 5,5. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia: questo pomeriggio e in serata sui monti avremo cielo in genere poco nuvoloso, su pianura e costa cielo variabile con maggiore nuvolosità sulla costa, per nubi a quote molto alte, temperature molto miti per la stagione in quota, possibili nebbie in serata su pianura e costa. A Trieste ieri l'incontro sul 20° anniversario dell'istituzione del giorno del ricordo, che sarà celebrato il prossimo 10 febbraio, un convegno in chiave storica per conoscere e approfondire una delle pagine più tragiche di questi confini, quella delle foibe e dell'esodo. Ha proposto interventi da relatori da tutta Italia il convegno nazionale organizzato al Circolo della Stampa di Trieste in occasione del 20° anniversario del giorno del ricordo, in un'iniziativa declinata sia sulla ricerca sia sulla divulgazione di quanto avvenuto sulla frontiera adriatica nel secondo dopoguerra. L'attività didattica rientra infatti tra gli obiettivi della legge 92 del 2004, che ha istituito una commemorazione dedicata non solo a conservare la memoria delle vittime delle foibe, ma anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Da allora gli enti storici, tra cui l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Regione, si sono impegnati a collegarsi con il mondo della scuola, con una pluralità di progetti. È stato il caso, per esempio, della mostra digitale intitolata Il confine più lungo, come spiega il ricercatore dell'IRSREC del Friuli Venezia Giulia, Fabio Todero. Abbraccia la storia della frontiera adriatica, dalla fine dell'Ottocento, non soltanto fino all'immediato secondo dopoguerra, con evidentemente le tragedie delle foibe e dell'esodo, ma abbiamo pensato di andare avanti, di arrivare fino ai nostri giorni. La commemorazione del giorno del ricordo diventa così una missione che va oltre quanto è avvenuto per proiettarsi nel futuro. Come chiarisce il direttore scientifico dell'IRSREC Friuli Venezia Giulia, Patrick Carlsen. Credo che lo sforzo debba essere fatto per collegare la celebrazione della giornata del ricordo, lo studio della frontiera alto-adriatica in chiave di rafforzamento della cittadinanza europea, in chiave appunto di riconoscimento e di riconciliazione anche tra i popoli che vivono su questa regione di frontiera. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Cultura e spettacoli, due adolescenti ai tempi della guerra in Jugoslavia e la cultura comune di quei popoli. Si chiama Jugosfera, l'incontro che sarà ospitato questa sera alle 18 al Miela di Trieste. Parleranno della loro storia personale la docente e scrittrice bosniaca di Sarajevo, Irma Ibert, autrice dell'autobiografia La sopravvissuta, e la giornalista di Rai News 24, Marina Lalovic, serba di Belgrado. L'abbiamo intervistata. Sono delle occasioni per dibattere su un conflitto che è iniziato circa 30 anni fa, ma che si è chiuso di base soltanto 24 anni fa con l'ultima guerra, quella per quanto riguarda il Kosovo. E dunque è un'occasione anche un po' per capire cosa sta succedendo nei Balcani occidentali anche rispetto alla cosiddetta europeizzazione dei Balcani, anche in chiave degli attuali conflitti, partendo da quello che ormai è aggiunto al secondo anniversario, purtroppo quello che riguarda l'Ucraina, e poi anche per capire quali sono dei lasciti adesso per quanto concerne questo conflitto, anche per capire a distanza di 30 anni cosa sta succedendo in questo territorio così vicino alla stessa città di Trieste e anche in questa ottica geopolitica attuale. Il territorio dei Balcani affetto da quello che sta succedendo in Ucraina, perché è una costellazione di paesi abbastanza sui generis, per utilizzare appunto un eufemismo in questa ottica geopolitica, partendo dal paese da cui provengo, la Serbia, che è l'unico paese che ancora mantiene comunque le relazioni con Mosca, infatti gli aerei e i voli non sono mai stati interrotti. Poi, per non parlare di Repubblica Serba, Repubblica Srpska, che ha gli ottimi rapporti col Cremlino. Tutto ciò per far capire che insomma è un territorio che va in una direzione diversa rispetto ai paesi occidentali, però questo è un monito molto importante per l'Unione Europea, che cerca di allargarsi verso i Balcani occidentali anche in ottica di nuovi protagonisti, nuovi vecchi protagonisti come appunto è la Russia, ma anche la Cina. È prioritario aggiungere i paesi dei Balcani occidentali nel gruppo dei 27. Nel calendario di eventi organizzati dal Comune di Trieste, da Cappella Underground, per la mostra La Barde Spaziali, 60 anni di Festival e Fantascienza a Trieste, il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini presenterà Dr. Neutron, la scienza del fumetto, che racconta le interazioni avvenute nel tempo tra scienza e fumetto e viceversa, al Castello di San Giusto alle 17.30 e oggi fino alle 17, ancora domani dalle 10 alle 17, pennelli laser e poster d'oltrespazio. Artisti in live drawing ridisegnano sotto gli occhi dei visitatori della mostra le locandine di film che hanno fatto la storia del fantasy e della fantascienza. Al Museo di Santa Chiara Gorizia, nell'ambito della mostra Silva Lapidea, alle 17, incontro dal titolo Arti a confronto nel segno della pietra. E adesso le nostre rubriche. Domani sul terzo canale televisivo Rai andrà in onda alle 11:05 Est-Ovest, curata dalla nostra redazione, dedicata all'approfondimento di quanto avviene nei paesi balcanici e dell'ex Cortina di Ferro. Il sommario della puntata. Caso Ilaria Salis, la severità del codice penale ungherese e le condizioni di carcerazione a cui è sottoposta la giovane italiana. La distanza tra il governo lettone e la minoranza russa si riflette anche nella percezione dei monumenti dell'epoca sovietica. Tutto è uno, questo lo slogan di Tartu, città estone che quest'anno è una delle capitali europee della cultura. La comunità georgiana a Bari, un gruppo integrato che si propone come ponte culturale tra il proprio paese e l'Italia. Hotel Pula, film del regista Andrei Korovliev, tematizza il ricordo traumatico della Croazia con la guerra degli anni 90. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E sempre domattina, ma su queste frequenze, il nuovo appuntamento domenicale con Vita nei Campi, trasmissione dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le concentrazioni di nitrati nelle verdure invernali. A seguire la storia di Angelo Floramo racconta della venerazione della gente dei campi per San Biagio, protettore della gola. Terza puntata poi sui grani antichi e le loro proprietà e quantità di crusca. E ancora, non tutti sanno cosa sia il diritto di tappo, ovvero la possibilità di portare in tavola al ristorante il proprio vino. Anche per gli agrumi ci sono particolari attenzioni per garantire un'ottima conservazione. Si chiama Bellis perennis, ma tutti le conosciamo come pratoline o margheritine dei prati. Una scheda. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Eugenio Giuffrida e Vassia Krismancic. In segreteria ha collaborato Samantha Agon. Da Francesca Terranova e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. L'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.